Aveva rimandato l'inevitabile finché aveva potuto. Goffredo il Vecchio stava per morire ed era necessario che Matilde pronunciasse i voti con l'odioso gobbo entro 3 giorni. Trovò Patrizio nella cappella. Patrizio, aiutami! So che devo farlo, ma sono terrorizzata al pensiero di farmi toccare da lui. Che devo fare? Patrizio aveva ricevuto la stessa istruzione di Matilde e conosceva bene la santità della camera nuziale. Sapeva altrettanto bene che Matilde non avrebbe trovato la sacra unione delle loro scritture nel matrimonio con quell'uomo ripugnante. Ma aveva ben poca esperienza pratica di quelle questioni, anche se Matilde lo punzecchiava spesso, dicendo che stava cercando fra le bionde bellezze tedesche una badessa adatta a fargli da compagna. Patrizio non si era ancora trovato di fronte a quell'opportunità, era piuttosto imbarazzato, così domandò: «Che consiglio ti ha dato Isabella?» Matilde respirò profondamente e cercò di ricordare la sua ultima conversazione con Isa. «Mi ha detto di non baciarlo.» Patrizio annuì. Era un consiglio comprensibile. Il libro dell'amore e il cantico dei cantici parlavano del bacio come di una cosa puramente sacra. Era attraverso il bacio che le anime si fondevano e gli spiriti si univano nel respiro condiviso. Questo era considerato parte integrante dell'unione divina, tanto quanto l'intimità finale del rapporto. E forse anche di più. Isabella aveva detto: «Dato che tuo marito ha il diritto di pretendere figli da te, Tilde, dovrai concedergli il tuo corpo, arrenderti dai fianchi in giù ogni volta che lo desidera, ma non devi sottomettere la tua anima. Ogni cosa dal cuore in su appartiene a te. Concedigli ciò che gli spetta per legge, ma conserva i tuoi diritti. Non gli permettere di baciarti se lo trovi ripugnante. Quello è un tesoro che non devi concedere a nessuno se non al tuo prediletto.» A quel punto Isabella aveva fatto arrossire Matilde insegnandole una serie di sconvolgenti diversivi che avrebbero fatto dimenticare i baci a qualunque uomo. Lei aveva ascoltato con attenzione sgomenta, ma aveva memorizzato tutto. Ora che l'infausto evento si avvicinava, era lieta di aver prestato la massima attenzione. Matilde era di sicuro una allieva modello. Quando 3 giorni dopo furono pronunciati i voti nella cappella del palazzo di Verdun, tremava sia per il freddo sia per la paura della prima notte di nozze, ma aveva deciso di affrontare la cosa con una strategia, come su un qualsiasi campo di battaglia, per difendere quello che era suo di diritto. In quel caso stava difendendo la sua anima. Quando il gobbo l'avvicinò nella camera nuziale, lo scandalizzò recitando con convinzione la parte di donna dissoluta, lo accolse nella piena gloria della sua nudità, con le selvagge trecce ramate che risaltavano sulla perfetta pelle di alabastro. Il fatto che i leggendari, maligni capelli rossi non fossero raccolti sul capo, ma coprissero delicatamente la sua parte più femminile, era tanto stuzzicante quanto sconvolgente e di sicuro impossibile da sopportare per un qualunque cristiano. Goffredo era certo che quella creatura fosse esattamente la strega che si credeva che fosse. Era il serpente Lilith, il demone tentatore, la compagna del diavolo, ma in quel momento il gobbo era disposto anche a rischiare la dannazione eterna. Il diavolo aveva vinto. Goffredo era ipnotizzato dalla sua novella sposa, ma allo stesso tempo terrorizzato. Dal canto suo, Matilde approfittò del suo stato di sbigottimento usando i trucchi che le aveva insegnato Isabella. Si assicurò che il marito non fosse affatto interessato a baciarla, come c'era da aspettarsi, tutto finì in poco tempo. Goffredo, il gobbo, si girò sul letto quasi subito e cominciò a russare, lasciando il corpo di Matilde un po' dolorante, ma la sua anima intatta. Il giorno seguente, quando gli fu chiesto della prima notte di nozze da un gruppo dei suoi uomini, il gobbo grugnì: «Ah! Quel che dicono sulle donne dai capelli rossi è vero fino all'ultima parola, credete a me.» La risata lasciva che seguì il commento era un chiaro segno che tutti Lorena sapevano fin troppo bene quello che le rosse combinavano dietro la porta della camera da letto. Goffredo il Vecchio, duca di Lorena, cadde in un coma profondo il giorno seguente e morì 3 giorni dopo, la vigilia di Natale del 1069. Matilde lo pianse con il rispetto e la sincerità che avrebbe riservato a suo padre naturale, ma non si poteva dire lo stesso del marito. Goffredo il giovane era stato appollaiato come un avvoltoio ad aspettare che il padre morisse per poter ereditare la totalità dei suoi domini, compresi quelli di Matilde. Il risvolto positivo dell'avidità del gobbo era che ormai era troppo impegnato per occuparsi di lei. Matilde faceva quello che voleva, ossia passava il suo tempo con Patrizio a supervisionare la costruzione di Orval. I lavori non sarebbero cominciati sul serio fino alla primavera, ma c'erano molti preparativi da fare. L'arca della nuova alleanza che conteneva il libro rosso era custodita in una cappella privata a cui solo Matilde e Patrizio avevano accesso. Questo faceva parte delle richieste prematrimoniali di Matilde, almeno finché Orval non fosse stata costruita e il libro non potesse essere trasferito lì, in modo da essere trascritto. Ovviamente aveva mentito al gobbo sul vero contenuto dell'arca, ma lui non era abbastanza attento per accorgersene. Patrizio ormai trascorreva la maggior parte del tempo nella cappella privata, cercando diligentemente di ricreare lo schizzo del labirinto di Salomone che era contenuto nel libro dell'amore. Avrebbero dovuto fornire al capomastro un disegno dettagliato. Matilde passava anche diverse ore al giorno in compagnia della madre. Ormai era diventata vedova per la seconda volta e in entrambe le occasioni aveva perso un uomo che amava per davvero. Beatrice sopportava il dolore con la stessa grazia e la stessa dignità con cui viveva il resto della sua vita, ma Matilde poteva vedere quanto questo le costasse. Fra i suoi capelli, un tempo nerissimi, si notavano molte ciocche d'argento e la bellezza per cui andava famosa stava cominciando a sfiorire sotto il peso degli anni e dei tanti dolori. Appena si scioglierà la neve, farò ritorno a Mantova, annunciò Beatrice una sera come un fulmine a ciel sereno. Matilde fu colta alla sprovvista, dato che Beatrice era originaria della Lorena, aveva creduto che la madre fosse felice di essere tornata nella sua terra natia. Beatrice aggiunse qualche dettaglio. La Toscana è diventata la mia casa negli anni che abbiamo trascorso lì, molto più di quanto potrà mai essere la Lorena per me. Ma a parte questo, non mi fido di tuo marito come mi fidavo del mio. Lui sarà preso dagli affari qui. In Lorena e io tornerò nelle nostre terre per assicurarmi che vengano amministrate come si deve. Lo faccio per la tua protezione, oltre che per la mia. Vorrei tanto poter venire con te, sospirò Matilde. Beatrice allungò una mano per accarezzare il braccio della figlia. Un giorno, cara, un giorno lo farai. Non disperare. Sei giovane e rivedrai la Toscana. E del tutto inaspettatamente, Matilde fece una cosa che di rado si concedeva. Cominciò a piangere. Prendendosi il viso fra le mani, si abbandonò alle lacrime. Per la patria che aveva perso, per i padri defunti, per gli amici troppo lontani, per il suo ripugnante matrimonio, per le sue responsabilità spirituali. E adesso per la partenza della madre. Beatrice lasciò che Matilde piangesse fino allo sfinimento, accarezzandole i capelli per tutto il tempo in una rara manifestazione di affetto materno. Palazzo di Verdun, primavera 1071. Matilde era incinta, ne era certa. Erano passati 2 cicli lunari dal suo ultimo mestruo e il modo in cui le si scombussolava lo stomaco al mattino le rendeva impossibile mangiare anche la più semplice fetta di pane. Ecco che le si presentava un dilemma. Se confessava di essere incinta subito, avrebbe potuto insistere che il gobbo non la toccasse per evitare di fare del male al bambino. Sarebbe stata una tregua graditissima dai suoi grugniti e dalla sua lascivia che lei detestava come il veleno. Forse poteva addirittura insistere per avere delle stanze private per tutta la durata della gravidanza. Purtroppo, cosa che lei non aveva previsto, il marito era stato estremamente eccitato dal suo comportamento disinibito durante la prima notte di nozze. Il suo desiderio per lei era diventato una sorta di ossessione, una morbosa dipendenza dalla sua esotica moglie e dal suo corpo innaturale. Ora veniva a cercarlo in modo troppo regolare, furioso ed esigente. Le prestazioni in camera da letto la facevano stare male, ma in qualche modo Matilde era riuscita a non farsi ancora baciare dal gobbo. Il fatto che lui mostrasse scarso interesse per il bacio, preoccupato com'era degli altri piaceri che la sua femminilità poteva dargli, era l'unica cosa che la lasciava integro il suo equilibrio mentale dopo che il sole tramontava. D'altro canto, se gli avesse rivelato che aspettava un bambino, lui le avrebbe impedito di cavalcare, questo avrebbe significato che non avrebbe potuto continuare a supervisionare la costruzione di Orval, che era l'unica vera gioia della sua vita. Non avrebbe mai sopportato di esserne privata. Aveva posato la prima pietra con le sue mani il giorno dell'equinozio di primavera nel 1070, quasi un anno prima, ed era stata coinvolta in ogni singola decisione che era stata presa sull'edificio. Inoltre era giunta dall'ordine la notizia che i monaci calabresi di Patrizio, che avrebbero copiato il libro rosso, si stavano dirigendo al nord, da lei, anche se all'inizio avrebbe potuto ospitarli a palazzo, quando il lavoro di traduzione fosse cominciato sul serio, avrebbe dovuto farli uscire da Verdun, allontanarli dagli interrogatori che facevano parte del comportamento quotidiano di Goffredo. Non voleva perdere la libertà di frequentare l'edificio prima del necessario. Il caso volle che il duca forzasse un po' troppo la mano una sera, subito dopo che Matilde aveva accertato la propria condizione. Il gobbo non era ancora rincasato, come accadeva spesso, dato che le loro terre si estendevano ben oltre la città di Stenay. Di solito, quando si spingeva fino al confine del territorio, non tornava a Verdun prima del giorno successivo, con grande sollievo di Matilde. Quella sera Matilde era andata a letto esausta, dopo essersi occupata della dimora, della costruzione dell'abbazia più grande d'Europa e della nuova vita che le cresceva dentro. Dato che era molto tardi, era certa che il marito avrebbe passato la notte altrove. Si sbagliava. Matilde lo sentì ancora prima di vederlo e sentì il suo odore prima che entrasse in camera. «Dov'è la mia donna?» Il gobbo entrò incespicando in camera da letto, puzzolente di birra e di qualcosa di ancora più disgustoso che Matilde riuscì a identificare solo quando si avvicinò. Vomito. Era sudicio e rivoltante, come se si fosse trastullato per ore in una delle taverne più squallide. Il gobbo si consolava periodicamente in quel modo. Malgrado i suoi difetti fisici, era un uomo sano. E prima del matrimonio aveva cercato regolarmente sollievo in bordelli e birrerie. Da quando aveva sposato la strega dai capelli rossi, aveva scoperto il bisogno di rifugiarsi più che mai nella sicura familiarità di ragazze dalla chioma paglierina, con la speranza di spezzare il maleficio che la sua perfida moglie aveva gettato su di lui. Ad aggravare il suo tormento c'era il fatto che lei lo odiava, che lo trovava disgustoso e lui lo sapeva. In passato, quando Goffredo cercava sollievo nella birra e nei bordelli, perdeva i sensi molto prima di poter raggiungere la moglie. Quella sera Matilde non sarebbe stata così fortunata. Quelle insipide mungitrici alla birreria non reggevano proprio il paragone con Matilde nella mente esaltata del marito, nemmeno con due delle ragazze più prosperose messe insieme nel retrobottega della birreria. Era riuscito a cancellare l'immagine del tizzone ardente che lo aspettava nel letto. Quando era tornato a palazzo, ormai era un uomo posseduto non solo dalla lussuria, ma anche dai suoi demoni interiori. «Vieni da tuo marito, svergognata!» farfugliò mentre si avvicinava togliendosi goffamente la veste sudicia. Matilde era semiaddormentata quando il marito era entrato nella stanza e adesso cercava di ritrovare l'orientamento per occuparsi di quell'arrivo inaspettato. I suoi riflessi, di solito veloci, erano rallentati sia dalla sonnolenza sia dalla sua condizione. Fu colta del tutto alla sprovvista. L'inaspettata rapidità con cui il gobbo le saltò addosso le diede a malapena il tempo di girare la testa mentre lui cercava di accostare la bocca fetida alle sue labbra. La prese sulla guancia con un grugnito e le lasciò con i denti un'impronta sul viso. Matilde cercò disperatamente di distrarlo con le sue mani esperte, ma quella sera la sua strategia, di solito efficace, non avrebbe funzionato. Goffredo la schiaffeggiò con il dorso della mano. «Girati verso di me, donna!» Non attese che lei obbedisse, le afferrò i capelli con entrambe le mani e le avvicinò con la forza le labbra alle sue. Matilde si sforzò di tenere uniti i denti, ma il gobbo la soggiogò e le infilò in bocca la lingua viscida e invadente. Nel disperato tentativo di liberarsi, Matilde usò una tecnica di guerra che le aveva insegnato Con, spingendo il ginocchio contro il petto del marito e rovesciandolo con un rapido movimento. Il gobbo cadde a terra con un tonfo e grugnì. Restò immobile per un attimo in attesa di riprendere fiato, poi cominciò ad alzarsi adagio con aria minacciosa. Teneva i pugni chiusi mentre si avvicinava a Matilde. «Mi darai ciò che mi spetta di diritto, quando e come voglio. Il tuo prezioso documento legale non può esimerti da quest'obbligo». Prima che lui potesse compiere un altro passo, Matilde si lasciò sfuggire la verità. «Fermo, Goffredo, aspetto un bambino». Il marito ammiccò come se non avesse sentito bene, il che era probabile nello stato di ebbrezza in cui si trovava. Quindi farfugliò: «Che cosa hai detto? Ho detto che porto in grembo tuo figlio e la levatrice dice che, data la mia ossatura esile, se mi tocchi rischio di perderlo». Mentì, naturalmente, ma lui era troppo ignorante per sapere queste cose, anche da sobrio. Goffredo fece un altro passo verso di lei e con sorprendente agilità le afferrò una ciocca di capelli, quindi la tirò a sé con uno strattone. «Perché dovrei credere a una strega bugiarda come te?» La sua lascivia e la sua ubriachezza erano una combinazione pericolosa e il gobbo era un uomo corpulento, doveva fare in modo che capisse in fretta. «Perché hai aspettato tutti questi anni per un erede? E se ora mi tocchi, rischi di mandare all'aria ogni possibilità di averne uno». Goffredo allentò la presa, ma non la lasciò andare. Matilde era esasperata ormai, pronunciò la frase successiva con il suo antico atteggiamento bellicoso. «In questa casa di certo non manca qualche servetta che sarà lieta di accontentarti in cambio di un gingillo. Vuoi proprio mettere a repentaglio la vita di nostro figlio, il futuro duca di Lorena, con la tua lussuria?» Funzionò. Malgrado fosse così ottenebrato dalla birra e da lei, Matilde riuscì a raggiungere la parte del suo cervello che conteneva ancora la sua grande ambizione. Il gobbo bofonchiò qualcosa e uscì incespicando dalla camera da letto, senza guardarsi indietro. Matilde provò compassione e anche un certo senso di colpa nei confronti della povera serva che avrebbe dovuto intrattenere il padrone in quello stato di furiosa eccitazione. Più tardi avrebbe scoperto dalle domestiche chi di loro aveva subito quell'umiliazione e le avrebbe raddoppiato la paga. Era il minimo che poteva fare. Ma in cuor suo era infinitamente sollevata dal fatto che accondiscendere alla lussuria del gobbo non sarebbe stato più un suo dovere, almeno per i 7 mesi successivi. Matilde era una prigioniera nel palazzo. Proprio come temeva, Goffredo le aveva fatto un elenco di tutte le cose che poteva e non poteva fare. Cavalcare era in cima alla lista delle attività vietate. Era sotto la costante sorveglianza di uno dei dipendenti del gobbo. Preti, dottori, levatrici, tutti la interrogavano in continuazione senza lasciarla mai un attimo in pace. Persino la cuoca controllava ogni boccone che si infilava in bocca e piazzava serve di nascosto nella sala da pranzo per essere sicura che mangiasse quello che era stato preparato. Per fortuna il marito la evitava come la peste dalla sera in cui aveva subito quell'umiliazione in camera da letto. Matilde era certa che non si fidasse di lei e che pensasse che avrebbe fatto del male al bambino di proposito, ecco perché aveva predisposto quella stretta e onnipresente sorveglianza da parte del suo personale. Era terribile che tutta quella gente la ritenesse capace di una simile crudeltà. Ma era altrettanto difficile sentire la vita che le cresceva dentro e sapere che non era stata concepita in modo puro, secondo gli insegnamenti dell'ordine. Quella povera creatura, per quanto non avesse nessuna colpa, non era stata generata in un ambiente sacro. Il libro dell'amore insegnava che tutte le creature nate dall'unione di veri amati e amate sono concepite in modo puro agli occhi divini, ma quando una creatura è concepita senza amore non ha una tale fortuna alla nascita. Questo non era un castigo per le povere creature che non avevano alcuna possibilità di scelta, ma era un avvertimento per gli adulti affinché non generassero prole al di fuori del regno dell'amore. Perché sono stata allontanata da Isabella e dal maestro in un momento come questo? Matilde aveva bisogno di una guida spirituale adesso più che mai. Ne aveva un bisogno disperato ed era infelice. Il suo unico rifugio era la cappella privata, il posto in cui poteva rifugiarsi e chiudere fuori dalla porta tutte le spie del gobbo. Entrò e, come sempre, toccò per prima cosa la statuina di Santa Modesta, che adesso era appoggiata su un altare dorato. Come sorpresa per il suo compleanno, Patrizio le aveva dipinto una rosa a 6 petali al centro del pavimento. Anche se Matilde non avrebbe avuto un labirinto in Lorena prima che Orval fosse terminata, poteva fornirle un luogo sacro per recitare la sua preghiera più importante. Forse questo le avrebbe dato la forza spirituale che le serviva per superare le tribolazioni attuali. Matilde amava quel posto ed entrò nella rosa per cominciare a pregare. Partì dal primo petalo e rese grazie per tutto ciò che aveva ricevuto dalla vita, prima di passare al secondo. Sia fatta la tua volontà, sussurrò fra sé e sé più di una volta. Perché vuoi questo da me? Perché sono stata allontanata da tutti coloro che amo e dall'unico posto che chiamerò mai casa? Come posso capire meglio la tua volontà? A volte sentiva la voce in modo distinto, ma questo accadeva per lo più nel labirinto. Altre volte udiva solo il suono del silenzio nelle orecchie. Quel giorno sentì la voce con una forza che non aveva previsto. Quando la Valle dell'Oro sarà finita, potrai tornare a casa, dove troverai un grande amore come ricompensa per aver obbedito al tuo destino e alla tua promessa. C'erano degli enigmi in quella risposta. In che modo, per la precisione, sarebbe ritornata a casa? Ma quello che sentì la confortò. Si voleva che costruisse Orval ed era proprio quello che stava facendo. La costruzione dell'abbazia procedeva spedita. Un inverno mite aveva permesso agli operai di lavorare ben oltre la normale stagione e i calabresi si occupavano assiduamente della trascrizione del libro rosso. Andava tutto secondo i suoi piani. Finì la preghiera dei sei petali, trascorrendo parecchio tempo nel quinto, il petalo del perdono. Pregò di trovare la forza di perdonare Goffredo per la sua scelleratezza, attraverso la compassione per il suo difetto congenito e per il dolore che questo gli aveva causato. Matilde pregò di essere perdonata per avere disprezzato il marito in quel modo, per non essersi comportata forse in maniera abbastanza amorevole con lui. Quando ebbe terminato, provò un senso di pace che prima le sfuggiva. E fu ricompensata per la sua devozione perché quello stesso pomeriggio, senza preavviso, arrivò Patrizio da Orval. Era venuto a informarla dei rapidi progressi della loro splendida abbazia e a portarle i disegni delle strutture che erano state innalzate per mostrarle quanto fossero belle e imponenti. Matilde desiderava più di ogni altra cosa vedere il grande rosone a sei petali, il cui profilo era visibile dal labirinto esterno di cui era appena cominciata la realizzazione. Patrizio era davvero entusiasta per lo splendore dell'intera costruzione e cercò di condividere con lei quella passione senza al contempo farla disperare perché non poteva uscire a cavallo con lui. Vide il rammarico sul suo viso. Oh, Patrizio, come vorrei essere lì con te. Il tempo passa molto in fretta, ci sarai ancor prima che tu te ne accorga, e quando potrai viaggiare di nuovo, ormai avremo quasi finito i primi edifici e ti avrò fatto costruire un labirinto perfetto in giardino. Non vedo l'ora, non sai quanto. Era l'inizio dell'autunno quando una mattina presto Patrizio venne a Verdun per annunciare a Matilde tutto eccitato che il labirinto era finito. Era allegro perché lo aveva inaugurato personalmente percorrendo gli 11 cerchi la sera prima. Voleva renderla partecipe di quel successo. Insieme avevano creato una magnifica biblioteca e un luogo adatto agli insegnamenti della Via dell'Amore ed era qualcosa che bisognava festeggiare. Quella che lo accolse non era la vera Matilde, non era affatto in vena di festeggiamenti. Era già al 7° mese di gravidanza e il bambino cominciava a farsi vedere sulla sua esile figura. Camminavano verso le stalle adesso. Matilde che fissava smaniosa i cavalli. Che cosa darei per poterci andare subito? Il labirinto è l'unico posto in cui ho trovato la vera pace, lo sai? Si fermò di colpo e si guardò intorno. Nessuno li aveva seguiti, a quanto pareva. Patrizio la conosceva abbastanza bene da sapere che cosa aveva in mente. C'era un motivo se il maestro diceva che avevano lo stesso cervello. No, Matilde, non ci pensare nemmeno, è troppo pericoloso. Goffredo non ci sarà per i prossimi 3 giorni. Se partiamo subito riusciremo a tornare prima che sia troppo buio. Non mi tratterrò a lungo, Patrizio. Solo il tempo necessario per visionare la nuova costruzione e percorrere il labirinto una volta. Sei impazzita, non sei in condizione di cavalcare. E anche se lo fossi, non puoi andare a cavallo con i vestiti che indossi. Ascoltami, hai mai conosciuto qualcuno che si trovi più a suo agio di me in groppa a un cavallo? Non è molto diverso che stare seduta su una sedia. Prenderò una delle cavalcature più vecchie e stabili. Mi costerà un'ora in più, sia all'andata sia al ritorno, ma se partiamo subito può funzionare. E ci sono degli indumenti da equitazione nella selleria. Indumenti maschili, ma saranno ancora più adatti a camuffare la mia condizione. Oh, non chiedermi di fare questo con te, Tilde, per favore. E a chi altri posso chiederlo, fratello mio? I suoi occhi color acquamarina si riempirono di lacrime mentre lo implorava. Ti supplico, non ho avuto nessuna gioia nella mia vita negli ultimi 6 mesi. Vedere ciò che abbiamo creato a Orval e festeggiare, come hai detto tu, mi ridarà la vita. Mi aiuterà ad affrontare il resto della gravidanza. Che Dio mi perdoni se capita qualcosa a te o al bambino, brontolò Patrizio scuotendo il capo. Sbrigati allora, prima che qualcuno ci veda.